Ricordo quella con cui sono uscito. Mi aveva detto non sei il mio tipo. Dopo ho provato anche a farmi l'amica, ma sono finito per fare l'amico. Che schifo. Questa estate invece no, mi sa che mi imbucherò alla festa su quello yo. E quando ti troverò, spero non mi becchino, almeno così ti dirò che non ti conosco e già sento che ti amo. Saluta tutti che adesso ce ne andiamo. Lei quest'estate la passa insieme a me. La stessa cosa l'ha detta a tutti e tre. Ma vabbè. Caraffè di mojito, la spiaggia ed il mare. E tu che quando balli si gira al locale. Perché sei diventata la hit dell'estate. In piedi fino all'alba a vederti ballare. È una musica che fa. Con quel vestitino sei davvero super. Se posti una foto ti esplode il computer. A bordo le faccio battute. Tipo dai andiamo a specchiamo un Uber. Molla tutti e se ne va. Poi si gira viene qua. Dice vuoi provarci ma va. Ma quando la porto al bar vedo che le ride già e penso che mi dirà che non ti conosco e già sento che ti amo. Saluta tutti che adesso ce ne andiamo. Lei quest'estate la passa insieme a me. La stessa cosa l'ha detta a tutti e tre. Ma vabbè. Caraffè di mojito, la spiaggia ed il mare. E tu che quando balli si gira al locale. Perché sei diventata la hit dell'estate. In piedi fino all'alba a vederti ballare. È una musica che fa. Una musica che fa. Lei dice voglio stare insieme. Io le dico ma mi hai visto bene. Lei scoppia a ridere tipo sto male. E mi chiede se sono normale. Scusami dai sarò breve. Una come te in giro non si vede. Ho preso una cotta pure con la crema solare. Caraffè di mojito, la spiaggia ed il mare. E tu che quando balli si gira al locale. Perché sei diventata la hit.